Buonasera, vi do il benvenuto presso la Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta per questa serata, qui la presentazione del libro Bebelplatz, la notte dei libri bruciati, con l'autore Fabio Stassi ed Emanuela Scichitano. Prima di lasciare la parola ai relatori, vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti, e cioè domani alle ore 17 c'è l'incontro del gruppo di lettura che discuterà del libro di Sandra Bonzi, 9 giorni e mezzo. E poi, mercoledì 23 aprile, ci sarà la presentazione dell'ultimo numero della rivista Il Cristallo, rassegna di varia umanità, con Carlo Bertorelle e poi Maria Pia Bigaran, Franziska Kont e Gianni Lanzinger. Vi do nuovamente il benvenuto e lascio la parola ai relatori, augurandovi una buona serata. Allora, grazie, buonasera a tutte e a tutti e grazie di essere venuti qui alla Biblioteca Claudio Augusta per la presentazione del libro Bebelplatz di Fabio Stassi. Io lo confesso subito, sono emozionata, prima ne abbiamo anche parlato con Fabio, con cui ci diamo del tu, perché era il febbraio del 2020, quindi parliamo di 5 anni fa, ci sarebbe stato il lockdown dopo nemmeno un mese, e Fabio venne a scuola, io all'epoca insegnavo al liceo Carducci, a presentare il libro con in bocca Il sapore del mondo, un libro bellissimo in cui Fabio raccontava attraverso la voce di alcuni poeti italiani del primo Novecento il modernismo in Italia e il suo amore per la letteratura. Avevamo letto questo libro con i miei alunni e avevamo poi avuto il piacere di parlare con lui. E quello è stato, diciamo, per me l'ultimo incontro con uno scrittore fatto dal vivo dopo tanti anni in cui al liceo Carducci mi ero occupata di questo. E da allora ad oggi poi sono successe tante cose nelle vite di tutti. Il Covid ha segnato tanto e anche poi nelle nostre vite singole, quindi tante cose sono cambiate, io non faccio più l'insegnante, quindi non mi sono poi più occupata direttamente di incontri con scrittori, faccio altro e sono contenta, come dire, che la biblioteca poi Claudio Augusta mi abbia proposto di organizzare questo incontro e di farlo proprio con Fabio Stassi, quasi un cerchio che si chiude e si riapre, dando la possibilità a me di incontrare uno scrittore che ho amato molto, che amo molto, e anche una persona che apprezzo per la sua delicatezza e la sua umanità. È difficile presentare Fabio Stassi, perché Fabio Stassi è uno scrittore di scrittori ed è un autore di libri, è una persona che vive dentro i mondi di carta da un punto di vista sia fisico che metaforico in qualche caso, perché è bibliotecario e ha fatto della biblioteca un luogo dove vivere e dove far vivere anche i personaggi e anche i lettori dei suoi libri. Quindi leggere Fabio Stassi è leggere anche la biblioteca nella quale fisicamente e metaforicamente vive. Quindi per me è davvero sempre emozionante incontrarlo. Ricordo soltanto alcuni dei titoli dei suoi libri che sono diventati poi dei veri e propri bestseller, come L'ultimo ballo di Charlot del 2012, un libro che ha vinto moltissimi premi ed è stato poi tradotto in tutto il mondo. Un altro libro che io ho amato molto, Angeliche e le comete, Mastro Geppetto del 2021, con in bocca Il sapore del mondo, appunto, che era del 2018. La lettrice scomparsa, che è un libro che inaugura la serie di Vince Corso, il biblioterapeuta che indaga su omicidi e scomparse attraverso lo strumento della letteratura. Un altro libro che ho amato molto è Curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno. Ne parlavamo anche prima, di quanto la letteratura possa essere una fonte di conforto autentico, una sorta di fede laica che si può coltivare nella vita e che ci può aiutare a vivere con sorriso e con leggerezza, con una leggerezza calviniana anche i momenti più difficili della vita. E oggi siamo qui a presentare appunto Bebelplatz, che è il suo ultimo libro, che è uscito lo scorso anno, che parte da un evento storico, quello del 10 maggio 1933, del rogo dei libri. Ma l'evento storico da cui parte è soltanto un incipit, un abbrivio, che poi permette a Fabio Stassi di attraversare il tema dei roghi dei libri e il tema della censura e di tutte le possibili forme di censura, un tema oggi particolarmente caldo e sensibile. Quindi noi durante questo incontro un po' attraverseremo, grazie a questo libro, questi temi e parleremo anche di autori della letteratura italiana che sono stati censurati durante il nazismo in maniera per noi inaspettata. Almeno per me, leggendo il libro, è stata una scoperta, però non voglio spoilerare, come direbbero i miei alunni, troppo. Quindi attraversiamo insieme nella nostra conversazione un po' tutti questi temi, a partire dall'ispirazione, cioè da che cosa ha ispirato un libro come Bebelplatz. Ne abbiamo parlato prima prendendoci un tè e quindi facendo finta che anche questo non è un momento di conversazione informale, estendiamo, no, anche al nostro pubblico un po' le riflessioni che abbiamo fatto prima. Bene, grazie, grazie intanto a tutti voi, grazie per essere qui oggi pomeriggio, una giornata come questa, a venire a sentire. Io la parola scrittore mi imbarazza sempre, però comunque a venire a sentire uno scrittore, diciamo. Allora, grazie anche per cominciare da questa bella parola che non si usa più, ispirazione, che era caduta in disgrazia. Ci fu un periodo che non potevi dire, non si poteva dire che uno credeva ancora nell'ispirazione, oppure perché i libri sono fatti di tante cose, sono fatti di dedizione, sono fatti di disciplina, sono fatti di volontà anche, di fatica soprattutto. E però c'è sempre questa cosa che sfugge e che pensavamo che non fosse così importante, invece è decisiva, è piccola, ma è decisiva. E devo dire che io mi sono riconciliato con questa parola quando ho letto che Sciascia oppure Tabucchi dicevano che loro avevano voglia di scrivere piccoli libri, ma ispirati. Questo era importante, che fossero ispirati, cioè che ci fosse un'idea, che fosse. Ed effettivamente in questo caso, almeno per me, devo dire che un po' con tutti i libri non ho mai saputo in anticipo quale libro avrei scritto, mai. Quindi l'ispirazione forse è restare un po' liberi con le orecchie, con lo sguardo, e cercare di capire quando accade qualcosa, di vederla, di notare una coincidenza, di notare qualcosa che ti possa, che insomma, che hai voglia di indagare. E in questo caso vi racconto questo: io non, questo libro non avrei mai pensato di scrivere un libro sui roghi dei libri dei nazisti. Era proprio una cosa che lo conoscevo l'episodio, ma non lo conoscevo bene, non l'avevo studiato più di tanto. Stavo per pubblicare un altro libro, ero andato a pranzo col mio editore, che è Antonio Sellerio, e doveva uscire un altro libro, era già calendarizzato, perché nelle case editrici ci sono dei calendari editoriali che a volte sono anche 2 anni prima, sai, il libro che uscirà. Quindi eravamo andati a pranzo a parlare del libro che sarebbe uscito, non di questo. E durante il pranzo gli ho detto, senti, io non mi sento pronto ancora per quel libro, e invece ho un'idea che mi frulla in testa, che non mi abbandona, che non mi fa dormire, che mi si è sotto pelle, ci devo lavorare. Gli ho detto, se tu mi dai, non lo so, 3 mesi per stendere i primi capitoli, e poi ci rivediamo, e io questo è il libro che sento in questo momento che vorrei scrivere. Perché? Allora, lo sentivo nettissimo, non sapevo se sarei stato in grado, non lo so tuttora, lo direte voi lettori, però sentivo che era il libro per me che andava scritto. Perché quello che prima Emanuela ha detto, era scoppiato il Covid, c'era stato il Covid nelle nostre vite, nelle vite delle persone, nelle vite dei giovani, nella storia politica del mondo. La storia improvvisamente si era rimessa in moto ed era come se ci fossimo svegliati tutti da un sonnolento e lunghissimo torpore in cui avevamo creduto di abitare il migliore dei mondi possibili, e invece non è il migliore dei mondi possibili. E il Covid ha squarciato il telo, il fondale, e le conseguenze le vediamo oggi: il ritorno della guerra in Europa, l'instabilità economica, insomma tutta una serie di, e soprattutto il ritorno di alcune parole d'ordine, alcune frasi minacciose che non si erano mai spente del tutto, ma non avevano neanche avuto l'audacia di uscire così allo scoperto. Cioè sentire frasi nelle interviste televisive come gli intellettuali, questi infestanti parassiti che popolano le strade della nostra città, sono le stesse identiche parole che pronunciava Goebbels negli anni 30, oppure i libri, oppure vedere una lista di libri censurati a Venezia tra il sindaco e libri per bambini, libri per ragazzi, tra cui un libro di Leo Lionni, Piccolo blu, piccolo giallo, 44 libri perché davano un'idea sbagliata di famiglia. Sentire, leggere che negli Stati Uniti d'America, ma un po' in tutto il mondo, la cultura maga, oppure iniziavano a dire che Hemingway non andava a letto, Fitzgerald faceva male, e insomma tutto le biblioteche, questo luogo, sì, che per me, che ci vivo e sono bibliotecario ormai da una vita, sono delle ambasciate vere e proprie, dei luoghi sovranazionali. Ecco, tutto questo, e insieme a una mia grande crisi di identità che mi si era aperta con il Covid, cioè io con il Covid ho iniziato a farmi tante domande sulla mia vita personale, ma anche su adesso con che inchiostro dovrei scrivere i prossimi libri. Non posso usare lo stesso di prima, non è cambiato, non posso far finta e non è successo niente. E con che inchiostro, non solo, però posso anche da lettore leggere, devo leggere in un altro modo e ricordare che rapporto ho con la memoria dopo quello che è successo. E, ecco, ne sono uscito in qualche modo cercando di capire da dove vengo. La domanda è molto semplice: da dove veniamo? Che cosa mi ha formato? Che cosa leggevo da bambino, da adolescente? Che biblioteche frequentavo? Qual è la mia biblioteca? E soprattutto, i libri che ho letto da ragazzo, che sguardo, che idea di mondo mi hanno dato? Che è l'idea di mondo che ho tuttora. E quindi per me è stata una ricerca, un viaggio vero e proprio, cercando di capire qual è la letteratura a cui appartengo. Cioè la domanda è, a quale letteratura appartieni? È una domanda fondamentale per me. la domanda delle domande. Ecco, a quale letteratura, che quella i nazisti dicevano marchiata di un marchio di infamia, oppure quella letteratura degenerata, perversa, deviata, e io volevo chiarirmi, fare i conti, forse è questo che il Covid ci ha imposto, una resa dei conti con la nostra vita, con la nostra storia, sia con la storia individuale che con quella del mondo. E quindi l'ispirazione nasce, la sentivo urgente, la sentivo forte, prepotente, ed è bello averla, perché quando è così scrivi, è una scrittura anche, nonostante i temi, felice, nel senso che avevo proprio voglia di scrivere. Non è stato un libro, per quanto io lavoro tantissimo sulla scrittura, proprio per me il mio artigianato, quindi lavoro sulla singola frase, sul periodo, non sono uno che scrive tantissimo in un giorno, mezza pagina neanche, però e lavoro tantissimo, però comunque le parole arrivavano e le idee arrivavano, e poi questo libro mi è esploso tra le mani, aveva mille sorgenti, mille rivoli, mille strade da seguire, dovevo stargli dietro, dovevo... E poi sono curioso, e quindi mi sono messo a studiare, e poi c'è stato anche però l'occasione reale, che è stato un viaggio vero, un viaggio fisico, un invito in Germania. Sì, stavo riflettendo un attimo su quello che hai detto, no? A quale letteratura si appartiene, perché tutti apparteniamo a una letteratura, e come dire, il dramma della censura, qualsiasi tipo di censura, è che ti toglie la possibilità anche di appartenere ad altre letterature. Cioè, non solo ti sradica dalla tua, da quella a cui tu appartieni, ma la cosa più drammatica è che la biblioteca è di per sé un luogo inclusivo ed accogliente nel momento in cui ti dà la possibilità di scegliere fra tanti altri scrittori e tante altre letterature, e l'essere estirpati dalla possibilità anche di cambiare la letteratura a cui si appartiene è la cosa più drammatica, ed è quella che un po' viene fuori sin dall'inizio del libro. Come dicevi tu prima, il libro nasce da questo viaggio in Germania e parti proprio dalla descrizione appunto della notte delle ceneri. Quindi leggo un breve estratto. Oltre ad aver ospitato le prime adunate hitleriane, il 10 maggio del 1933, allo scoccare della mezzanotte a Königsplatz, come in molte altre piazze tedesche, i nazisti avevano bruciato migliaia di libri. In una delle tante fotografie di quella notte si vedono centinaia di braccia sollevate nel gesto del saluto romano intorno a un falò, militari, civili, studenti. Poi il testo continua nella descrizione della folla, che non è un elemento da sottovalutare. Chissà com'era stata la concitazione di quelle ore, tutto il movimento di libri nuovi usati che si erano riversati per la strada, le porte spalancate delle biblioteche, delle scuole, le librerie private che si svuotavano. L'uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo di carattere, aveva arringato Goebbels a Berlino quel 10 maggio davanti a 40.000 persone, prima di dare l'ordine di bruciare gli scritti di Heinrich Mann, di Karl Marx, di Sigmund Freud, di Albert Einstein, di Bertolt Brecht, di Stefan Zweig, di Erich Maria Remarque. Si tratta di un atto forte e simbolico, un atto che dovrebbe informare il mondo intero sulle nostre intenzioni. Mi ha colpito la pagina, perché nonostante uno abbia studiato e anche abbia spiegato da insegnante questi eventi, leggerli raccontati così colpisce, perché sembra di essere lì, in quella piazza, a osservare quello che sta avvenendo, e l'impatto emotivo è forte, nonostante la delicatezza con cui tu riesci comunque a entrare in punta di piedi in questo evento storico. Quali, diciamo, nello studiare, nell'approfondire, nel fare questo viaggio non solo nei luoghi ma in questi eventi, quali sono gli aspetti che più ti hanno colpito? Allora, intanto le parole. Si tratta di un atto forte e simbolico per informare il mondo intero delle nostre intenzioni. È una frase chiarissima e a noi oggi ci suona contemporanea. Quanti uomini la stanno ripetendo? I dazi. Si tratta di un atto forte e simbolico per informare il mondo delle nostre intenzioni. Oppure, cambiando Erdogan, possiamo, insomma, abbiamo adesso una serie di uomini, quindi anche lì c'è tutto un discorso sul patriarcato che è interessante da fare, ma erano già parole che ci risuonano, le stanno ripronunciando tali e quali, non devono cambiare una virgola, ma per me c'erano altre cose che risuonavano nella mia memoria personale, perché questo, curiosamente, è un libro personale. E oserei anche dire quasi intimo, perché la storia è sempre la storia, la grande storia, poi intercetta le vite delle persone e diventa anche storia intima. E per me risuonava in tanti ricordi miei personali. Per esempio, io ho avuto un padre che è cresciuto nella provincia di Caltanissetta e che negli stessi anni in cui i giovani nazisti, siamo nel 1933, con queste torce illuminavano la notte delle città tedesche e si fomentavano bruciando le biblioteche, mio padre mi raccontava che in questa campagna dell'entroterra siciliano andavano in giro con delle torce accese di zolfo, ma i carusi, i ragazzi che uscivano dalle miniere, e quindi giovani che vanno in giro di notte con delle torce. E poi è un'immagine letteraria per me, ecco, perché dove il confine tra la memoria, la storia e la letteratura, tutto si mischia. E mi viene in mente anche la candela stearica di Geppetto, a cui avevo dedicato un romanzo, ma soprattutto un personaggio a cui ho sempre voluto molto molto bene. E si faceva luce nella sua notte, nella notte dentro il pesce cane, con una candela stearica, ci dice Collodi. E sempre con una candela, Rosso Malpelo, nel racconto di Verga, scende nella cava a cercare il padre, che è morto, ma lui ha solo le scarpe, non ha visto il corpo. E queste discese agli inferi, queste discese nel buio, questo Collodi è il più bravo di tutti, quando Pinocchio cade dentro il pesce cane o la balena, ci dice che cade come se avesse immerso il capo in un calamaio pieno di inchiostro, che è un'espressione bellissima, ed è come se noi appunto avessimo tutti immerso, adesso più che mai, il capo in un calamaio pieno di inchiostro. Quindi in quegli anni, sul notte e nebbia, si dicevano i tedeschi, cioè era calata sull'Europa la notte più dura, più brutta. Ecco, quindi questa fiaccola, da un lato veniva usata in maniera violenta per dare fuoco ai libri, dall'altro per farsi luce, dall'altro per sopravvivere dentro la pancia di un enorme cetaceo, che equivale alla depressione naturalmente, o a uno stato di malessere, di disagio. Mi interessava la natura della luce, non so come dirvelo, e ci ho riflettuto a lungo, perché può essere duplice, poi noi possiamo usare, o tutto possiamo usarlo in modo sbagliato, in modo corretto. I muli, per esempio, prima parlavo di Rosso Malpelo oppure di Pinocchio, in quella letteratura, la letteratura del secondo Ottocento, il mulo era l'animale simbolico per eccellenza, l'animale della fatica, l'animale che rappresentava il destino dell'uomo. E infatti c'è un mulo nella sciara in Rosso Malpelo, c'è loro che diventano muli, c'è Lucignolo che muore. Pinocchio è tragico in un modo, e il mulo, appunto, nella campagna siciliana, sempre mio padre mi diceva: guarda, i muli, bisogna avere rispetto per i muli, però possono essere anche i muli possono essere diversi nella dignità e nella soma. Cioè c'è il mulo che, per esempio, a Portella della Ginestra, che fu il primo episodio di una strage di Stato, una vera e propria strage, la prima, il facsimile poi di varie stragi di Stato che si sono poi ripresentate più avanti, c'erano i muli che portavano la frutta ai contadini per la festa del primo maggio, e c'erano i muli che portavano le armi a chi avrebbe sparato dalla montagna sui contadini. Muli diversi nella dignità e nella soma, siamo tutti muli in qualche modo, ma la differenza è nel rivendicare la propria dignità, ma anche la propria libertà. E quindi, quando leggo che è stato un bibliotecario, anche lì ci sono bibliotecari diversi nella dignità e nella soma, cioè c'è un bibliotecario che ha immaginato tutto questo tradendo il mandato della sua vocazione, perché questo più che un mestiere è una vocazione, e ha iniziato a stilare le prime liste nere. Io non ci potevo credere che fosse un bibliotecario, che poi fu premiato, gli diedero la biblioteca, non mi ricordo di quale città, e quindi c'è un richiamo a tutti quanti al nostro lavoro, al nostro rapporto con i libri anche, e con la ragione, cioè sforzarci di pensare con la nostra testa e non con quella degli altri, essere liberi, che è quello che i libri in fondo, per questo sono pericolosi, ma come mi ha detto uno scrittore medio orientale, mi ha detto: più pericolosi dei libri sono i lettori. Il vero obiettivo che tutte le dittature cercano di colpire sono i lettori, cioè cercano di impedire che si formino dei lettori, perché vuol dire esseri che ragionano con la loro testa, che hanno una dignità, che credono nella ragione, e che quella piccolo lumino che cercano di, per farsi luce in un mondo così spaventoso, nella campagna attraversata dai mostri, come diceva Sciascia, e oggi la campagna è di nuovo attraversata dai mostri, tenere vivo quella piccola luce. Questa è la letteratura. Sì, a proposito della scena che tu descrivevi prima, tu scrivi: all'aeroporto salì su un treno che mi portò alla stazione ferroviaria centrale. Da lì avrei potuto raggiungere l'hotel a piedi e liberarmi dei bagagli, ma sul binario di fronte centinaia di donne e di bambini in fuga dal confine orientale ucraino stavano scendendo da un altro convoglio e riempendo la banchina di bandiere. Una cosa del genere l'avevo letta soltanto sui libri di storia, e presto ebbi pudore anche di guardare. Il mondo era ricaduto in un buio così nero e così profondo che pareva di essere entrato nel capo in un calamaio pieno di inchiostro, aveva scritto Collodi 140 anni prima. E io non so se fosse stata di nuovo una balena o un pesce cane a inguaiarci, o noi a colare a picco. Ma certo, anche la nostra storia era tornata ad essere la storia di un naufragio collettivo, eppure dal ventre di quell'animale, al chiarore di quella candela stearica come quella con cui si faceva luce Mastro Geppetto, mi era parso di vedere come stavano realmente le cose. Ero approdato ad Amburgo, con un piccolo taccuino in tasca e una domanda martellante nella testa. Non potendo più usare quello di prima, con quale inchiostro ora avrei dovuto scrivere e leggere e ricordare? E qui, di questa parte, mi ha colpito il valore simbolico del taccuino, che, come dire, è come quella torcia, cioè, ed è quello che, come dire, che permette di attraversare, come dire, mondi e realtà che si ha anche pudore di guardare, perché a volte si può avere pudore di guardare, ma poi da scrittore si deve avere il coraggio di scrivere, quindi si deve superare, no, quel pudore, riuscire a trasformare in parole anche quello che si pensava che non potesse accadere e a cui noi non potessimo più assistere, perché nel libro i due estremi cronologici che vengono messi in relazione sono appunto il 10 maggio del 33 e poi il 24 febbraio del 22, il giorno in cui viene annunciata e tutti noi assistiamo in televisione all'invasione dell'Ucraina, e lì siamo ripiombati in quella notte nera da cui pensavamo di esserne usciti e di non ricaderci mai più. No, questi sono poi due estremi che il libro tocca, e in questi due estremi ci stai tu come scrittore col tuo taccuino e con un obiettivo che parte da una domanda. Ci sono stati anche scrittori italiani che sono stati inseriti in questa lista di libri? Cioè, c'eravamo anche noi fra i censurati? E se sì, in che modo? Sì, sì, mi ricordo quel giorno ero arrivato ad Amburgo, dove non ero mai stato, una città affascinante anche, come tutte le città tedesche, completamente ricostruita perché bombardata completamente. E anche lì poi erano accadute delle cose, ero capitato in una festa di profughi curdi in una piazza, poi mi avevano portato a sentire una cantante curda la sera che mi aveva, come diceva Elia Scanetti, dilaniato il cuore, cantava dei canti di profughi, e forse per tutte queste emozioni, e poi in questa stazione avevo visto tutti questi altri profughi di guerra in Europa. È impressionante questa stazione piena di donne, i bambini, e forse per tutto questo marasma emotivo proprio che mi è venuto quasi spontaneo chiedere, quando mi hanno portato anche a Monaco a vedere le piazze dei roghi dei libri, ma quali scrittori italiani hanno bruciato? Cioè, perché era una domanda anche un po' infantile, ma ed è curiosissimo che non lo sapeva nessuno, e mi hanno indicato ho iniziato una ricerca tramite, insomma, un po' le competenze da bibliotecario, un po' i repertori che ho trovato in rete, e i cinque nomi che alla fine, perché io cercavo gli scrittori, non i politici, volevo sapere quali scrittori avevano dato fastidio al potere dell'epoca. Italiani, e vedere che disegno formavano, perché se avevano a che fare con me poi, e tutto quello che è venuto dopo è stato sorprendente. Io per primo me ne sono, perché i nomi sono abbastanza curiosi, sono dei nomi, diciamo, che potrebbero formare un canone tra quelli più famosi. Cioè, io pensavo di trovare Dante, Boccaccio in Turingia, ma non è sicuro sia stato bruciato, però pensavo di trovare Manzoni, Leopardi, non so, Foscolo. Invece trovo Pietro Aretino, un poeta licenzioso del Cinquecento, e penso, i nazisti c'è della sessuofobia, forse, non lo so perché se la sorprendono con un poeta che noi consideriamo. Poi però, andando a rivedere nel dettaglio e meglio a studiare Pietro Aretino, è uno degli grandi intellettuali del Rinascimento. Ariosto lo definisce il flagello dei principi. Quindi era uno che si scagliava contro il potere. Poi cantava l'amore, cantava l'amore come forma di libertà, cantava il piacere maschile soprattutto, però come sempre, era un libertino o un libertario. E quindi si capisce che, ed era all'inizio degli anni 30, era stato tradotto in Germania, ha avuto un momento di diffusione alla fine della Repubblica di Weimar. Poi trovo Giuseppe Antonio Borgese in Italia, non lo leggeva nessuno ieri e oggi ancora meno, e Sciascia dice Borgese è importantissimo ma non se lo fila nessuno. E la storia di Borgese è uno dei pochissimi professori che non ha firmato l'adesione al fascismo, 14 su 1300, 12 ufficiali, 14 con Borgese e Leone Ginzburg, in esilio a Chicago. Era un cosmopolita siciliano, veniva da una piccola provincia siciliana, le Madonie, un cosmopolita. Diventa amico di tutte le teste migliori che ci sono al mondo in esilio negli Stati Uniti, sposa la figlia di Thomas Mann, ma questo i nazisti non lo potevano sapere. Nel 1944 inizia a pensare, a comporre, a scrivere una Costituzione mondiale. E io lì mi sono esaltato, perché che qualcuno immagini una... oggi è facile dire un utopista. No, un uomo di un realismo totale, perché o facciamo la Costituzione mondiale, o, non lo so, sarà tempo di secoli, ma insomma di anni. E la fa a Chicago, dove è stato... il primo esperimento che poi ha portato la bomba atomica fu effettuato in questa università insieme al rettore. Cioè, noi purtroppo abbiamo una responsabilità per la bomba atomica, dobbiamo darci da fare, fanno questo comitato contro la bomba e per la Costituzione mondiale, di cui Borgese è il presidente. Appunto, i nazisti non lo potevano sapere, ma... questo colpisce l'occhio del censore. Bisognerebbe rifletterci di più, perché l'occhio dei censori hanno sempre avuto un occhio speciale, i gesuiti, poi insomma durante l'Inquisizione, capivano in anticipo quelli che potevano dare fastidio. Infatti, però con Borgese avevo tante cose in comune, la Sicilia, il cosmopolitismo in cui credo anch'io, l'utopia, se volete, di pensare che sia necessaria una Costituzione mondiale. Poi Emilio Salgari è lì il mio, non lo so, sono stato felice quando ho visto il nome di Salgari, perché noi qua non lo consideriamo. Tra l'altro credo che stasera ci sia la prima puntata della serie, non lo so, sentivo in treno. Al massimo lo associamo a Kabir Bedi, però sì. Sì, lo associamo a quella sigla. Ma una letteratura così, sì, esotica. Sì. E Salgari invece è lo scrittore che avevo letto nell'adolescenza, lo scrittore, anzi prima, nell'infanzia, e che mi ha insegnato a leggere, quindi ho un debito come generazionale con questo scrittore. E poi, se mi permetti, il fascino di Salgari è la sua capacità di viaggiare non uscendo mai di casa. Un sedentario, il viaggiatore immobile. Dimostra, no, la capacità che ha la letteratura di farti viaggiare pur non viaggiando fisicamente, quindi... incredibile a pensarci adesso. Sì, ma pure se Salgari parla di Borneo, lui parla sempre dell'Italia. E riletto oggi, io sono sempre andato, io ho studiato Risorgimento, avevo una passione per il Risorgimento italiano, questo slancio di giovani ventenni, anche che erano venuti a morire per la Repubblica Romana, tutta, che per me è come la guerra civile spagnola, cioè venivano dall'Ungheria, dalla Polonia, per un'idea di libertà, di indipendenza. Sono sempre andato alla ricerca del romanzo del Risorgimento. Nella nostra letteratura manca il romanzo del Risorgimento, non sono I Promessi Sposi, un po' Le confessioni di un ottuagenario, ma non c'è il romanzo del Risorgimento. E invece uno l'ha scritto, ma non se n'è accorto nessuno, o in pochi, e l'ha scritto Salgari, perché Sandokan è Garibaldi, ma lo dice lui nelle lettere. Yanez è Nino Bixio, i Tigrotti di Monprecen sono i Mille di Garibaldi, l'isola di Monprecen è Caprera, la morte della perla di Labuan è pari pari anche nella sua rappresentazione, la morte di Anita nelle valli di Comacchio, e Brooke è Metternich, cioè l'invasore, lo straniero. Tornava tutto, la pista esotica in Salgari è una falsa pista. Lui parla dell'Italia e trasferisce quello slancio di questi ventenni, che noi abbiamo avuto due cose importanti nella storia italiana, per me, il Risorgimento e la Resistenza. La Resistenza ha dato una grande letteratura, il Risorgimento no, purtroppo. Però, appunto, a patto che oggi vediamo in Salgari e i nazisti questa cosa qui, diciamo che un pochino forse l'avevano intuita, ma soprattutto, e questo se posso vorrei raccontarvelo brevissimamente, perché ha a che fare col libro, perché mi ha scatenato poi tutta una serie di esperienze mie personali. Vi dico, la scrittura è sempre personale, non può non esserlo, altrimenti non sarebbe vera. E una delle prime volte, io avevo pubblicato uno dei primi libri che avevo pubblicato, ma proprio 15, quasi 20 anni fa, e mi chiamarono in una biblioteca a Macomer, che era un posto sperduto della Sardegna, al centro della Sardegna, dove c'è solo una caserma, si fa, insomma, e a Macomer una libraia a parlare di Salgari. E io vado lì e parlo di Salgari insieme a uno scrittore argentino. È una delle primissime cose che facevo, quindi non sapevo neanche di com'era questo tipo di incontri. E mi ricordo che andai lì e dissi questa cosa del rapporto tra Salgari e Risorgimento. E quando diedero la parola invece a questo scrittore argentino, Raul Argemi, lui improvvisamente si mette a piangere. Ed è una cosa che non posso dimenticarmela, perché un pianto inconsolabile, dirotto, singhiozzante. E quindi tutti siamo rimasti un po' così, e poi si ferma, e poi chiede scusa, si asciuga, dice: adesso volevo dire delle altre cose, ma non so se era per quello che avevo detto io, perché che cosa gli era successo in quel momento. E ci dice che lui aveva fatto 10 anni di carcere nella dittatura argentina, e che lo zio gli dava di contrabbando, diciamo, i libri di Salgari. E i libri di Salgari gli avevano salvato la vita per 10 anni, e che tutti i sudamericani, sia Che Guevara si vantava di averne letto 62, ne aveva uno nella bisaccia quando lo catturarono, ma tutti gli scrittori, è morto Vargas Llosa ieri, ma tutti gli scrittori sudamericani hanno avuto il massimo rispetto per Emilio Salgari. Per noi è letteratura di serie B, ma per loro è l'antiimperialista, l'anticolonialista, il ribelle, quello che si è, ed è vero, perché lui è un antiimperialista, è un anticolonialista, è loro che però, e poi soprattutto lui che aveva fatto il carcere, quei libri l'aveva vissuti sulla propria pelle, quando diciamo i libri sono vita, non sono, e quindi non era finzione, non era esotismo, il carcere, la tortura, era cosa che lui conosceva bene, e quindi per lui era la vita. E poi dice questa cosa bellissima: è per noi sudamericani, cileni, messicani, argentini, brasiliani, per noi Salgari è la rabbia. Lo dice in spagnolo: la rabbia contro l'ingiustizia, l'ordine omicida del mondo. È impegnativo e mi fa riflettere, diciamo, su diversi aspetti, fra cui uno anche legato anche alla mia esperienza da insegnante, perché tu giustamente dicevi, mentre per questo scrittore argentino e per il mondo sudamericano è considerato importante, è letto, è apprezzato, noi in Italia patiamo alcuni pregiudizi che hanno portato ad una costruzione del canone letterario, che è poi quello che viene insegnato nelle scuole, che è rigido e che si fonda su alcuni scrittori e su alcuni generi, no? In cui in cima c'è la poesia, i romanzi impegnati, i romanzi di formazione, e poi in fondo, no? I romanzi di avventura o i romanzi di genere, che però vengono considerati paraletteratura o letteratura di serie B, quindi qualcosa che non è degno di essere portato a scuola, e quindi forse dovremmo, come dire, riflettere criticamente anche da persone che lavorano nel mondo della scuola su come si costruisce un canone, e poi al di là di cosa sia il canone, di cosa sia la letteratura, perché se non è vita allora diventa soltanto un esercizio retorico, e non è così. E la testimonianza di questo scrittore fa riflettere su questo aspetto, che non è da poco. Anche la lettura che tu davi prima di Salgari, un Salgari risorgimentale, fa riflettere su questo, così come fa riflettere anche nel libro lo spazio che viene dato alla scrittrice Maria Volpi, che è una delle scrittrici censurate dai nazisti. Io confesso, non conoscevo, l'ho imparata a conoscere attraverso il tuo libro, e anche lì Maria Volpi è una scrittrice di feuilleton rosa, ma anche qui quel genere diventa uno strumento, un grimaldello che scardina alcuni meccanismi e rivendica delle libertà, e quindi come tale potenzialmente censurabile. Sì, l'occhio del censore è molto meno, sì, è molto meno schifiltoso, diciamo, cioè si è occupato di uno scrittore per ragazzi e si è occupato di una scrittrice di romanzi rosa, perché e in effetti erano molto letti, entrambi, sia Salgari che Marta Volpi. Erano sempre all'inizio degli anni 30 molto tradotti in Germania, fino all'avvento di Hitler, poi dopo scompare, perché l'altra censura è proprio impedire che vengano pubblicati. E la sua storia è l'unica donna di questa compagnia, di questi cinque, ed è una storia curiosissima, perché era la scrittrice di romanzi rosa più famosa in Italia insieme a Liala. Arrivò a vendere 1 milione di libri, quindi una cifra enorme, e romanzi rosa, ma romanzi sulle donne, e molto anche audaci, se vogliamo. 1919 pubblica un romanzo, Perfidia, su un amore tra due donne, forse non so se è il primo caso nella letteratura italiana. E poi da giornalista pubblica un reportage sul lavoro femminile nelle fabbriche. Una scrittrice molto interessante, ma c'è un ma, ed è un ma enorme, fascistissima, cioè fascista e razzista. Quindi perché se la sono presa con una scrittrice apparentemente o comunque pubblicamente allineata al potere. E la sua storia è... Lei scriveva per queste riviste Lidl, erano riviste modernissime, con delle copertine, Bruno Munari le faceva, con dei reportage molto all'avanguardia, perché il fascismo aveva due morali: da un lato per la borghesia anche c'era molta libertà, anche sessuale, e dall'altro invece c'era molta repressione. E queste erano le riviste per i borghesi. E in queste riviste lei va a Parigi a fare la corrispondente, a Parigi nel 31, nel 30, e conosce Joséphine Baker, la ballerina nera, all'epoca famosissima, che vive con tanti animali, la va a intervistare, conosce la cultura nera. Intanto era una donna che viaggiava da sola e scriveva di donne che viaggiavano da sole. Per l'epoca, di donne che dovevano essere odierne, si diceva, c'era questo odierne, cioè eleganti, raffinate, emancipate, colte, sensibili, ecco, e le viene un'idea di scrivere un racconto su una storia d'amore tra una donna bianca e un uomo nero, idea anche abbastanza elementare, e scrive questo racconto, lo pubblica in questa rivista, non succede nulla. La leggono, lui è un ingegnere, un nero che ha studiato a Firenze, e lei è una donna, insomma. 4 anni dopo, nel 1934, l'anno dopo il rogo dei libri, cioè in Germania sono già un anno che i libri li bruciano, mentre in Italia ancora non c'è la censura, questo racconto ne fa un romanzo. Il romanzo, il titolo, fa un po' ridere, è Sambadù o dell'amore negro. Questo era il termine che si usava. Sambadù, il nome di questo personaggio, inizia in un modo curiosissimo, lei che cade facendosi la doccia, loro affittano due camere attaccate in un albergo di Roma, lei scivola facendosi la doccia, lui la sente, entra, non sappiamo come, la soccorre, però poi dice che la mette a letto, ma si va a prendere la vestaglia. Potrebbe essere una puntata di Sex and the City. Sì, sì, era questa, è la lettera. E ancora lei non lo sapeva. Sì, sì, sì, ma è bellissima, l'ho letto, ahimè, vero. Non si può leggere, vi devo dire, è un po' faticosa da leggere, però la situazione è questa qua. Nasce tra i due una simpatia, si innamorano, si sposano, hanno un figlio, poi lui improvvisamente, è bellissimo, lui improvvisamente inizia a ballare dentro casa, a ballare nudo, a fare strani versi da foresta, perché lei è razzista, e alla fine se ne tornerà nelle sue... No, lei se ne va, lei abbandona il marito, abbandona il figlio, e lui ritornerà nelle foreste da selvaggio qual è. Quindi questo era, non metteva in dubbio nessuna la copertina la fa Marcello Davidovic, mi sembra, che è un triestino, che per Rizzoli, e c'è quest'uomo bello, nero, con la giacca, il fazzoletto verde dal taschino, e lei un po' succinta, con la spalla nuda, che si stanno si vede proprio per baciare. Questa copertina arriva sul tavolo di Mussolini, e Mussolini dà in escandescenze. Come chi ha dato il permesso di pubblicare, se la prende col capo della polizia, se la prende con Ciano, se la prende col ministro della propaganda, se la prende con tutti. È il pretesto perfetto per il regime per operare un giro di vite. Un giro di vite che da quel momento in poi tutti i romanzi che verranno pubblicati in Italia dovranno passare al vaglio della censura fascista, uno sul tavolo di Mussolini, uno della polizia, uno della propaganda. È il primo romanzo che si censura in Italia, e l'ha scritto una donna. Lei resta non lo capisce. Ma come? Sono fascista, sono razzista, il romanzo dico che questa, che cosa l'avevo pubblicato 4 anni fa come racconto, che cosa, che è successo? È successo che siamo intanto a metà degli anni 30, è cambiato un po' sì, l'atmosfera proprio. E ecco, io neanche conoscevo questa storia, l'ha studiata Marcello Sorgi 2 anni fa, sono andato a cercare i materiali d'archivio, ma soprattutto rileggendo oggi questo romanzo, ecco, la scuola bisogna tornare al testo, perché sennò si studiano solo i manuali, quello è il problema. Però rileggendo il testo con la sensibilità che abbiamo oggi, grazie ai giovani anche che sono così attenti al linguaggio, alle questioni di genere, al razzismo, è vero, alla nostra lingua che è una lingua maschilista, si declina sempre al maschile, rileggendolo con la nostra sensibilità, a noi è chiaro adesso la faccenda, come non quello che dava fastidio era lei. Il vero scandalo è Silvia, non è Sambadù. Il vero scandalo è lo scandalo di una donna che si sposa uno nero, è già, ma non è tanto quello, ma che rompe il matrimonio, che lascia un figlio, che se ne va. Quindi una donna che prende in mano il proprio destino. E quello era intollerabile in un momento in cui la donna fattrice del fascismo doveva fare i figli, il sacro inviolabile vincolo del matrimonio, la maternità, metteva in discussione tutti i caposaldi morali, diciamo così, del regime. E lei non lo... questa cosa lo soffre, perché va in depressione la scrittrice, non riesce a elaborarla. Non può, chiede a tutti, e morirà in un incidente aereo nel 1940 al largo di Stromboli. E al suo funerale ci saranno solo Rizzoli e Amedeo Nazzari, che era un eroe dei film tratti dai suoi libri. Ma è una storia interessante che denuncia però un'altra cosa, il patriarcato di cui è fatto ogni fascismo e ogni potere, su cui si consolida. Quindi questi autori, piano piano, componevano una visione del mondo. Quindi l'antiimperialismo, l'anticolonialismo, l'antipatriarcato, e tutti gli elementi si andavano a unire. E io piano piano mi dicevo che ecco la letteratura a cui apparteniamo, se vogliamo avere uno sguardo sul mondo, è questa. E l'ultimo autore, poi, che il quinto, diciamo, Ignazio Silone. Ignazio Silone è un pezzo di cuore per me, perché era... Fontamara è stato il romanzo dei miei 16 anni, sai, quei romanzi, io ne ho avuti due, tre, Fontamara, Conversazione in Sicilia, sì, sicuramente, forse il primo libro di un poeta, Ungaretti, ma sono quei libri che, non è che sono tanti nella vita delle persone, sono quei libri che incontri a 16 anni e poi te li porti dietro per tutta la vita, e per me Fontamara era stato un innamoramento totale. In più poi dopo era uscito, voi siete più giovani, ma uno sceneggiato con Michele Placido, sì, alla Rai, e Fontamara però anche lì ha avuto uno strano destino, cioè, a parte essere entrato uscito dal canone della letteratura a fasi alterne, ha poi, come dire, subito una vicenda di revisionismo storico che sì, ha lasciato dubbi rispetto alla sua figura, no? Il dubbio che lui fosse un collaborazionista, un falso atroce. Storico. Sì. Allora, il primo che ha letto questo libro, prima che fosse il libro, è stato Adriano Sofri, a cui l'ho mandato perché volevo un suo parere. che è una persona che è di grandissima cultura, di grandissima intelligenza, che, a cui ogni tanto chiedo dei consigli, insomma uno sguardo, e lui mi disse che lui e molti di loro avevano creduto a questa cosa di che Sillone, addirittura, che è una cosa ignobile, che per me l'hanno infangato, insomma, che potesse essere una spia dell'ovra. In realtà Sillone aveva un fratello nelle carceri fasciste, un fratello a cui voleva molto bene e per il quale probabilmente, che poi morì, a cui è dedicato Fontamara, e che forse avrebbe voluto proteggere, e per questo però non si piegò mai, non era un uomo che accettava un compromesso. E la storia di Sillone, anche la storia di Sillone riletta oggi, è una storia incredibile, perché nessuno mi aveva detto che uno scrittore, e quindi non un politico, uno scrittore italiano, avesse affrontato Stalin fisicamente di persona. Voi lo sapeva, io non lo sapevo, lui l'ha scritto in uscita di sicurezza, ma Sillone fondò il Partito Comunista insieme a Gramsci nel 21, era a Livorno con Bordiga, è uno dei giovani comunisti, viene mandato all'Internazionale Comunista a Mosca. In uno di questi viaggi ci va con Togliatti nel 27, e in una riunione plenaria Stalin gli chiede di firmare contro un documento scritto da Stalin, da Trotsky. E Sillone dice: io firmo, ma prima lo devo leggere. Mi sembra al minimo. E Stalin sospende la riunione, manda un compagno bulgaro la sera in albergo a spiegare a questi italiani come dovevano comportarsi. Il compagno bulgaro va lì e gli dice: guarda, c'è una lotta di potere, c'è Stalin da una parte, Trotsky dall'altra, vincerà Stalin, ti devi schierare, perché non... Lui il giorno dopo alla riunione dice: io se non leggo il documento non lo firmo. Quindi non era un uomo che si poteva accettare un compromesso, rischiando anche la vita. In quegli anni si rischiava la vita. Non è... Quindi la paura della firma non è solo del dirigente scolastico, era stata anche di Sillone, ma di fronte a Stalin. Adesso potrò usare questo episodio. Voglio leggere prima come fece Sillone con Stalin, questa maniera. Cosa firmo? No, però è interessante, come dire, questo ritratto di diversi scrittori così diversi fra di loro e censurati, perché ci fa tornare un po' a quello che dicevamo prima, sul quale magari adesso anche concludiamo, sentendo anche qualche parere, no? Anche dei nostri amici che sono venuti qui, sull'inclusività e sull'accoglienza della letteratura, che può far stare a fianco l'uno accanto all'altro scrittore, scrittrici e libri così profondamente differenti fra di loro. Però a loro modo sono tutti degli irregolari, hanno una postura irregolare. Alla fine Sillone è un antifascista radicale, il suo è un antifascismo prima del fascismo, proprio un'attestazione di dignità, di... contro l'ingiustizia del potente sul debole, e quella cosa lì è la pagata, l'esilio. Ma poi, visto che questo è anche un libro di viaggio, perché sostanzialmente ci sono le città tedesche, c'è Amburgo, Monaco, ma poi ci sono anche, perché sono andato dietro a questi libri, a questi autori, li ho pedinati, e sono finito a Zurigo, dove è stata stampata Fontamara, sono finito nella tipografia a Schaffhausen, perché sono malato per queste cose, insomma ho ritrovato l'edificio, 2 anni fa l'avevano dismessa la tipografia, però ho citofonato lo stesso, mi hanno aperto 2 ragazzi, gli ho detto: guardate, qua dentro è stato stampato il libro antifascista più importante al mondo in quegli anni, mi hanno fatto entrare, mi hanno fatto vedere, c'erano ancora le macchie delle macchine tipografiche sul pavimento, proprio perché per me la scrittura deve essere anche in qualche modo devo vedere con i miei occhi, devo esserci, ci deve essere il corpo, lo sguardo, cioè non avrei potuto scrivere quelle pagine. Ed è un vero libro anche di viaggio, per me anche d'avventura, se vogliamo. Alla Don Chisciotte, che è uno dei tuoi compagni di viaggio. Anche lui si faceva luce con una candela e a lui fecero la cosa più terribile. La biblioteca la murarono. E che è quello l'inizio, il sesto capitolo di Don Chisciotte. È qualcosa di lui che cerca, si sveglia dopo che delira, cerca la sua biblioteca. Non solo l'hanno svuotata e bruciato e i libri, ma hanno murato la porta. E lui in corridoio dice, ma qua c'è la mia biblioteca, tocca, e c'è il muro. C'è arrivato un negromante, l'ha portata via. Ecco, la disperazione di Don Chisciotte che non trova la sua biblioteca. Questo, secondo me, è un'immagine contemporaneissima, forte, appunto, ed è il contrario di Goebbels, perché Don Chisciotte non è l'uomo forte e di carattere, come volevano i nazisti. È il contrario, è l'uomo fragile, quello della letteratura, e non ha un carattere perché si immedesima nei personaggi di cui legge l'avventura. Il lettore è il lettore, che è l'opposto dell'uomo di potere. Quindi c'è una contrapposizione nettissima tra il lettore e il potente. Questa cosa qui mi era già chiara prima, diciamo, adesso l'ho veramente in qualche modo cercato di mettere a fuoco, soprattutto parlando, come vi dicevo prima, anche con lettori di altri posti del mondo, del Medio Oriente, per esempio, dove parlando con lui, con loro, è qualcosa di... Noi noi entriamo in una biblioteca come questa e non rischiamo nulla. E basta leggere Hazar Nafisi, no? Lolita Teheran, oppure... E loro entrano in una biblioteca e rischiano il carcere, perché la polizia politica chiede il registro dei prestiti, vuole sapere che libri leggi, e ciascuno di loro ha distrutto una biblioteca, la propria biblioteca personale. Questo scrittore iracheno curdo, appena arrivato in Germania, gli hanno chiesto, ma tu perché sei emigrato in Europa? E lui gli ha risposto, per poter leggere in pace. Che è quello, il funzionario tedesco ha detto, non è un motivo per cambiare continente, spostarsi, ma cioè, no, io dove sto io, leggere è un atto di ribellione. Ecco, noi abbiamo forse un po' dimenticato quanto leggere sia un atto politico anche nella scelta di quello che si legge, e quanto scrivere sia un atto politico. La letteratura lo è sempre, perché appunto riguarda il mondo. E poi il libro ha preso tante altre rivoli, come dicevo, mi sono imbattuto in Elsa Morante, in tutta la questione dei bombardamenti. Sono tutte cose che mi stanno veramente a cuore, ma sono tutte cose legate. In Elsa Morante che dice questa cosa? Sì, che... uno scrittore è un uomo a cui sta a cuore tutto, purché la letteratura. La letteratura. E quando, È da confutare. È una frase da confutare. È una frase, no, è una frase che fa male, a me fa male, quando l'ho letta, perché a me è stata a cuore per tutta la vita la letteratura. E lei dice, devi starti a cuore tutto quello che accade nel mondo, fuorché la letteratura. Ed è una, e lo dice Elsa Morante, e ha ragione, abbiamo discusso anche con diversi... amici, ma anche pubblicamente, no, aveva sbagliato, no, secondo me ha ragione lei, la letteratura non ha senso se non è vita, non serve a nulla, cioè, quindi, ed è il momento di prendere una posizione anche politica su quello che sta accadendo, che accade, su cose... che non possono non scuotere il bombardamento di un ospedale. Ma come si fa? Cioè, io non adesso anche i bombardamenti prima, ma l'atto simbolico di colpire un ospedale, un pronto soccorso, è anche uno spostamento simbolico fortissimo, su cui non si può non prendere una posizione chiara, in qualche modo. Concordo. Allora, prima di chiudere, lasciamo ai nostri amici e alle nostre amiche la possibilità di conversare. Tanto grazie per il bellissimo excursus, assolutamente. Sì, è interessante notare poi come l'inizio di ogni regime, in realtà, in tutte le epoche sia iniziato con la distruzione dei libri o l'incendio delle biblioteche, no? Basta pensare a, non so, alla conquista romana dell'Egitto e la distruzione della biblioteca di Alessandria, no? Oppure l'invasione della Britannia da parte dei normanni, che distruggono le biblioteche sassoni e fanno arrivare libri dal continente. E poi l'incendio, diciamo che però è un incendio letterario, quello del Nome della Rosa, no? Quindi la biblioteca che già è divisa in base ai vari continenti, e i libri ci sono tutti, anche quelli proibiti, no? Il secondo libro della Poetica di Aristotele è presente, ma ha le pagine avvelenate. Perché il problema non è l'esistenza del libro, il problema è che è stato scritto da Aristotele, ma finché non ci sono lettori, il libro può esistere, no? E quindi poi il bibliotecario, che è cieco, e anche questo dal punto di vista, diciamo, allegorico, è importante, alla fine incendia la biblioteca, no? Per distruggere comunque la biblioteca, che comunque racchiude anche tutto un insieme di libri ed anche di contraddizioni dal punto di vista culturale, no? E il tutto poi si conclude con un grande incendio, no? Quindi è interessante questo distruggere come primordio poi di un nuovo regime, insomma. Grazie. Sì, poi questo discorso della biblioteca mi riguardava particolarmente, perché è il mio mestiere, quindi per una volta mi sono sentito più intero, perché io ho sempre sofferto una sorta di schizofrenia, cioè da un lato fai il bibliotecario, dall'altro vorresti fare il romanziere, lo scrittore, ed è una scissione anche proprio nel tempo, nella giornata. Questa volta è come se tutto quello che un po' avevo studiato storia all'università, e quindi mi tornavano tante parti della mia vita, cioè come se un po' mi fossi ricomposto dopo l'esplosione atomica quasi del Covid, e un po' mi fossi ritrovato attraverso questo libro. In questo senso anche per me è molto importante. Sì, sì, e poi ci sono, ma sono episodi che sono citati, sì, nel libro, la Damnatio Memoriae, i roghi, e poi ovviamente, no, ci sono i riferimenti ai libri che parlano di roghi di libri. Fahrenheit è sicuramente più famoso. Sì. Un episodio terribile è quello del 213 a.C. in Cina, in cui l'imperatore che fa la Grande Muraglia e l'imperatore nel quale hanno trovato l'esercito di terracotta e quello che ha unificato la Cina, decide che tutta la storia prima di lui dovesse essere azzerata, e quindi completamente la storia cominciava, perché questo è il sogno del potere: riportare le lancette della storia, Hitler e Mussolini, prima della rivoluzione francese, per esempio, che aveva, oppure, e questo è quello che è tuttora oggi, anche non solo di loro, ma oggi di nuovo vogliono riportare a prima dei diritti sanciti alla Rivoluzione Francese. Ma questo cancelliere fa un editto e dice: chiunque userà la storia per criticare il presente verrà giustiziato insieme alla sua famiglia. Parole di 2200 anni fa, chiarissime e esemplari. chiunque userà la storia, cioè la memoria, cioè l'immaginazione, cioè la letteratura anche, per criticare il presente. Il problema è criticare il presente. Cioè quello che nessuna forma di potere nella storia dell'umanità ha mai voluto, ha accettato, la critica del presente. È questo che viene colpito e verrà giustiziato. Quegli studiosi cinesi li hanno sotterrati vivi, 64. E molto prima di quando, insomma, di chi brucerà i libri brucerà anche gli uomini. Grazie Fabio. Grazie per questo viaggio nella tua letteratura che ci permette oggi di sentirci, ecco, schizofrenici, esattamente come ti sei descritto. Schizofrenica mi riconosco perché appartengo al mondo delle regole, sono un avvocato, ma appartengo anche al mondo della scuola. E mi viene da rileggere quelle parole belle che mi hai scritto. Anche i libri appartengono al mondo delle regole e le custodiscono. Siamo, veniamo da un mondo dell'informazione diffusa inizialmente attraverso la carta, che ha richiesto un'alfabetizzazione iniziale. Adesso, e lo dico perché in qualche modo mi trovo coinvolta, io insegno in un indirizzo con una curvatura social media e quindi il mondo dei social richiede quella che noi abbiamo chiamato e definito alfabetizzazione digitale. Ora, il pensiero critico a cui hai avuto modo di accennare, questo pensiero critico nei nostri studenti, perché non diventi propaganda, ma l'informazione diventi il racconto dei fatti, quelli che i giornalisti devono raccontare quando rischiano la loro vita per andare ad analizzare quello che succede nella nostra Ucraina, ma in qualunque altro posto di guerra. Ecco, come aiutarli? Come aiutare il mondo della scuola? C'è questo proverbio bellissimo spagnolo che dice: la ribellione si impara leggendo, in cui credo moltissimo, la ribellione si impara leggendo, galiziano. Ma, ed è effettivamente così, perché leggendo impari comunque a ribellarti in qualche modo, educhi il tuo spirito critico. Probabilmente sarebbe quasi da simulare anche nelle scuole, da proibire, da vietare la lettura. Cioè, paradossalmente usare il contrario. Se ti scopro che hai letto un libro, ti metto una nota, non lo so. Oppure, questo forse farebbe capire restituirebbe il piacere anche della clandestinità, le poesie passate sotto banco durante, non so, la dittatura in Unione Sovietica, oppure i ciclostilati, la letteratura che sempre ha trovato il suo modo di veicolarsi, e con anche il piacere proprio dell'illegalità quasi, che però poi è perché in fondo io credo anche in questo, che la letteratura usi la menzogna o la finzione per smascherare la menzogna invece con cui hanno scritto la storia e con cui si fonda il potere. Se Hitler avesse vinto avremmo avuto altri manuali, sarebbe stato molto difficile confutarli o comunque... Ed è un discorso decisivo in qualche modo, su cui mi piace questo appello però alle regole, mi piace, lo condivido. E sì, diciamo che, come dicevamo anche prima, quando ho letto il libro, appena l'ho letto, ho detto, beh, questo è un bel libro che faccio leggere ai miei alunni. E già nella testa mi immaginavo tutta una serie di percorsi che avrei potuto fare. Poi mi sono resa conto che effettivamente non è più così, perché insomma adesso faccio un altro lavoro. Però effettivamente è uno di quei libri che possono essere inseriti in un'attività didattica vera, autentica, da fare assieme agli alunni e alle alunne in classe e a partire da questo libro fare dei percorsi di riflessione autentica, non solo sulla letteratura ma sulla storia. Quindi come insegnare agli alunni? Lo si insegna aprendo un libro e facendo innovazione attraverso un libro, se inteso come innovazione sociale e come capacità, no, di far crescere, appunto, no? Guardo Giovanni che mi... Una cosa che ho scoperto proprio scrivendo questo libro è che la prima biblioteca che viene data alle fiamme è la biblioteca dell'Istituto di Sessuologia di Berlino. Ecco, questo per esempio i ragazzi secondo me lo capirebbero e gli interesserebbe, e scoprire anche che c'era un istituto di sessuologia a Berlino e che il direttore di questo istituto aveva teorizzato il terzo sesso e dava aiutava, faceva corsi di educazione sessuale, cosa che manca totalmente, mi sembra, nelle scuole, e dava ricovero anche, e l'omosessualità era un reato in Germania, era un reato penale, e dava delle patenti mediche, insomma, alle persone transessuali, le accoglieva, perché Berlino sotto la Repubblica di Weimar era una città libera, all'avanguardia. Poi arriva, e anche lì le parole d'ordine, diciamo, del generale Vannacci contro o di altre persone contro qualsiasi forma di devianza, sono le stesse, identiche, che si usavano all'epoca. Ed è curioso che quattro giorni prima del rogo del 10 maggio vanno a incendiare questa biblioteca, si prendono i registri, perseguitano queste persone, e parte tutto da lì. E c'è un rapporto tra letteratura e devianza anche sessuale, perché la letteratura è una forma di devianza. Cioè, perché sta dal lato, diciamo, dell'impurità, o comunque dal lato storto, del legno storto del mondo. E questo io sono sicuro che i ragazzi lo capiscono, questi, andare ad approfondire, sono temi che li riguardano, per cui hanno sviluppato una sensibilità che noi non abbiamo, purtroppo, e su questo forse è un terreno che sono sicure potrebbero capire. Sì, che capiscono quando, come dire, maturano queste esperienze assieme a persone, ad adulti che ci credono davvero, che sono davvero innamorati di questo, perché pensano che questo sia uno dei modi in cui si può stare al mondo, una sorta di clinamen, un punto di caduta, e ognuno ha diritto e può avere l'opportunità attraverso la letteratura di scoprire qual è il suo declinamen e di coltivarlo, no? Cioè, se riconoscono questa autenticità, come dire, questa verità può diventare anche la loro, no? Allora, se ci sono altre domande, no? Allora, io ringrazio. Grazie a voi. Fabio Stassi, perché conversare con lui e conversare con tutti gli scrittori che sono dentro di lui, e anche con quelli che poi noi ci portiamo dentro, quindi grazie davvero. Grazie a voi. La voglio pure io.